e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Il consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo. E oggi proprio iniziamo con il sorriso di Tiziano Terzani, però mi piacerebbe proseguire con i vostri, che aspetto con i messaggi di WhatsApp. Vi ricordo il numero 349-238-6666, sorridete, ridete anche voi, i benefici sono assicurati, è proprio un gesto che costa poco e rende molto, riduzione dello stress, potenziamento delle difese immunitarie e cuore più felice, senza contare che chi sorride attira giudizi positivi e risulta anche più affascinante, quindi fatevi due conti. E allora oggi, già che sorridiamo, proviamo anche a fare una valutazione del nostro sorriso. Controlleremo denti, gengive, lingua e labbra. Secondo una ricerca fresca, gli italiani tornano dal dentista rispetto agli ultimi anni, dunque c'è un'inversione di tendenza. Portiamo i nostri bambini dal dentista, questo è il dato, anche se in materia di igiene e di carie siamo ancora un pochino così confusi. Allora noi proveremo a capire di più con il nostro esperto. Nel frattempo vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Siamo in diretta Facebook, Deborah torna domani, sta sorridendo anche Carmelo, che regia la parte tecnica, che saluto con un bel sorriso. Allora, puntata ricca anche di temi di denari, partiamo. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco, acqua, elettricità, ma soprattutto elettricità. Partiamo da qui, parliamo di bollette di operatori dell'energia elettrica in questo primo approfondimento con il nostro, posso dire nostro, Luigi Gabriele, bentornato. Assolutamente sì, sono tutto vostro. Oh, responsabile affari istituzionali di Codici, centro per i diritti del cittadino. Allora, sappiamo che il mondo delle utenze dell'energia elettrica sta vivendo un anno piuttosto turbolentino, si parla molto della fine del cosiddetto mercato tutelato e quindi della necessità di scegliere presto un fornitore del mercato libero per la nostra utenza domestica. Ma ci sono dei tempi certi per questo passaggio? Facciamo un po' il punto della situazione? Beh, siamo abituati in Italia ad avere l'incertezza perenne. No, per fortuna no, perché questo testo è fermo, è stato solo approvato dal Senato, deve andare ancora alla Camera, non sappiamo nemmeno minimamente quando arriverà alla Camera. La previsione è, se dovesse entrare in vigore, diciamo, domani, che dal 1 luglio 2019 dovrebbe venire a finire il cosiddetto mercato di tutela, ma è una previsione su cui stanno giocando gli operatori per cercare di raggirare come al solito i clienti. Infatti negli ultimi mesi sono passati dei messaggi un po' contrastanti da parte di alcuni operatori, sembrava ci fosse più fretta, diciamo così, invece ne ha da passare di acqua sotto i ponti, parliamo del luglio del 2019. Fosse certa, se la legge fosse legge, qua parliamo di un disegno di legge in discussione tra le due camere, come tutti sappiamo potrebbe rimanere anche all'infinito in discussione tra le due camere. Quindi io chiedo subito ai nostri ascoltatori se hanno avuto l'impressione che abbiamo descritto dalle proposte commerciali che hanno ricevuto di avere qualcuno vi ha messo fretta. Luigi Gabriele, noi torniamo su questo tema che avevamo già affrontato con Deborah, perché una notizia dei giorni scorsi rende il tema di grande attualità. L'antitrust ha avviato verso i tre più grandi operatori italiani nella distribuzione e vendita di energia elettrica in Italia procedimenti istruttori. Ci sarebbero state alcune strategie abusive, ci spiega meglio di che cosa si tratta? Allora, per semplificare, perché poi sono temi difficili. Per questo prendiamo tecnica. Lei. Ok, allora è come se noi siamo andati da una vita sempre allo stesso barbiere, sì, che era l'unico barbiere sotto casa e al prezzo veniva definito dal nostro comune, no? Sì. Poi a un certo punto il comune dice no, va bene, allora fate voi, faccia il mercato e si riempie di barbieri sotto casa. Però se noi siamo andati sempre per una vita a quel barbiere, gli abbiamo raccontato tutti i nostri segreti, persino cosa accade dentro la nostra casa, è normale che quel barbiere, anche dinanzi alla liberalizzazione del mercato, sa tutto di noi e può fare qualsiasi cosa per fidelizzarci. Questo sta accadendo nel mercato elettrico, nel senso che fino ad oggi noi eravamo abituati a avere un meccanismo di natura monopolistica dove il prezzo è amministrato perché viene stabilito dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. Invece già da anni esiste un libero mercato in Italia. Questa è un'altra fregatura di quei messaggi pubblicitari che stanno passando, perché già da tempo il consumatore può scegliere eventualmente un nuovo fornitore. Soltanto che con questo disegno di legge viene proprio a cadere questo prezzo amministrato. Siccome che il guadagno di un operatore, sebbene può stare sia sull'uno che sull'altro mercato, è molto più alto nel libero mercato, perché nel libero mercato il prezzo della componente energia lo decide lui, sì, mentre dall'altra parte lui è costretto solo a rigirare al consumatore senza guadagnarci un granché il prezzo gli viene stabilito dall'autorità, allora stanno spingendo, conoscendo i propri clienti, perché ce l'hanno già in pancia, sono clienti che sono Acea, Enel o A2A, ma nel cosiddetto mercato tutelato, allora gli stanno dicendo passate dall'altra parte perché sta per venire a mancare la tutela e quindi dovete scegliere un nuovo operatore, rimanete con noi dall'altra parte. Questa è una grande scorrettezza, perché è come se io avessi più informazioni di te e quindi avendo più informazioni di te sono più avvantaggiato nel vendere il caffè ai clienti che passano per strada. Certo. E questo è quello che sta accadendo, per quello è intervenuta l'antitrust. Ma allora, come comportarci, Luigi Gabriele, se abbiamo capito di aver ricevuto una proposta di questo tipo e magari se l'abbiamo accettata, perché potrebbe capitare anche questo? Allora, tenete conto che la gente seria non va a casa o non chiama a casa di nessuno. Anzi, tra l'altro, la regolazione non impone che il proprio fornitore di elettrica e gas comunichi attraverso il porta a porta o i cosiddetti call center. Quindi il consumatore deve sapere che oggi in Italia conviene rimanere lì dove si trova da sempre, ovvero sulla tutela, per una serie di motivi che adesso non sto a dire. Però conviene anche e soprattutto sotto il profilo economico. Cioè dove stiamo, restiamo? Esattamente. Se invece ha particolari esigenze, ma perché sono esigenze proprie, che oltre alla fornitura dell'energia e del gas vuole avere i condizionatori, il pannello solare, il frigorifero, lo vuole pagare in bolletta, allora può tranquillamente decidere di aderire al libero mercato, ma non per una questione di prezzo, però una questione di ulteriori servizi che nulla hanno a che vedere con la commodity. Nel caso in cui il consumatore risulta essere stato di una pratica commerciale scorretta, perché lo hanno chiamato a caso, sono andati a casa sua in maniera ingannevole e hanno detto che dovevano cambiare per forza il proprio fornitore o non lo so, le tantissime scuse che sto sentendo in questo momento rasentano l'impossibile, può tranquillamente e ha il tempo nel momento in cui se ne rende conto, e questo accade sì, anche nel momento in cui arriva la prima fattura, tranquillamente chiedere a quell'operatore di annullare il contratto e di essere riportato nello stato precedente. E se dimostra che è stato anche oggetto di una pratica commerciale scorretta, ovvero che non c'era la volontà alla base di fare questa roba qui, può addirittura non pagare nulla per tutto il periodo che è stato trascinato nell'altro mercato. Interessante. Allora, voglio leggerle un messaggio al 349-238-6666 di Titti, che ci scrive: giusto questa mattina una signora in difficoltà mi ha chiesto informazioni sul caso. Ieri l'hanno massacrata dicendole che doveva cambiare azienda, ha dovuto lasciargli i suoi dati, per fortuna non ha firmato nessun contratto, ma oggi la chiameranno per una conferma. Luigi Gabriele. Benissimo, appena la chiamano per una conferma la signora dirà che ci ha ripensato e che non ha nessuna intenzione di cambiare fornitore. Io ripeto, i consumatori non sono costretti a dover dare dati personali che riguardano le utenze a nessuno, perché lo Stato non può costringere attraverso norme di legge a fare questo. Solo gli operatori scorretti, e proprio per questa loro scorrettezza dovete diffidare, addirittura tenerne conto sotto l'aspetto reputazionale, che proprio quelli che fanno questo tipo di lavoro non sono, li dovete quelli, prendere in bravo, considerazione. Non frequentiamoli. Esattamente. Ecco, invece ci sentiamo presto con Luigi Gabriele, sicuramente quando tornerà Deborah. Un saluto, grazie per essere stato con noi e soprattutto per la chiarezza. Caro saluto, un abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori. E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme in diretta Facebook. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta... Cuore e denari. Bene, dopo le informazioni sul traffico passiamo a una campagna di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e cura delle malattie degli occhi. Si chiama La Vista Ti Salva la Vita. È ideata e organizzata dalla Fondazione Insieme per la Vista Onlus con il patrocinio tecnico-scientifico della Società Oftalmologica Italiana. E in linea con noi abbiamo il presidente, il dottor Matteo Piovella, che è tornato a trovarci. Buongiorno, dottore. Buongiorno Nicoletta. Allora, dottore, noi siamo portati a dare tutto per scontato, vista compresa. Soprattutto oggi, nella nostra società, perdere la vista è un'eventualità non considerata. In realtà, i dati ci dicono che il numero delle persone con gravi problemi di vista e di ipovisione, al contrario di quello che si crede, è destinato ad aumentare. Dottor Piovella, è corretto? Ma è molto corretto, ed è anche corretta la percezione della gente. Oggi, fino ad oggi, noi abbiamo dato dei risultati strabilianti, inimmaginabili quando io ho incominciato a fare il medico oculista. Vorrei ricordare che i 7.000 oculisti italiani salvano la vista a 1.200.000 persone in Italia ogni anno, e che le barriere della tecnologia sono state praticamente superate, quasi come se fossimo riusciti ad atterrare sulla Luna. Dottore, però è vero che i problemi di persone con problemi di vista sta aumentando. Assolutamente sì, anche perché faccio rilevare che si allarga la forbice tra le persone che non riescono a trarre giovamento da queste innovazioni, da queste nuove capacità, da queste nuove terapie, che praticamente si vedono cadere sulle spalle questa drammaticità della perdita della vista. Vorrei anche dare dei dati più precisi. La più importante organizzazione sanitaria degli Stati Uniti d'America ha fatto proprio una previsione che nei prossimi 8 anni, indipendentemente dai successi e della capacità di curare le persone, sono destinate ad aumentare dell'80% le persone ipovedenti, che quindi hanno una vista non adeguata per fare una vita normale, e soprattutto i ciechi. Questo è importante, è dovuto semplicemente all'aumento dell'età media delle persone, e anche perché la medicina, per quanto possa essere aggiornata, importante, perfetta, non potrà mai dare il 100% di risultato. Dottor Piovella, la cataratta e la degenerazione maculare senile stanno aumentando in virtù dell'allungamento della vita media. La cataratta, lo sappiamo, è causata dall'opacizzazione del cristallino, sì. Mentre la degenerazione maculare, lei mi corregga perché io cerco di semplificare, so che posso contare su di lei, so che la degenerazione maculare, come dice il nome, è invece una patologia che interessa la macula, che possiamo considerare come il cuore, la parte nobile della retina, e che è proprio la zona che ci consente di riconoscere i volti, i colori, di leggere e di studiare. La vostra campagna ha proprio l'obiettivo di portare l'attenzione su questi due problemi, per sottolineare anche il ruolo della prevenzione, ma anche per parlare delle opportunità di cura che, rispetto al passato, come lei ha anticipato, sono sempre più mirate ed efficaci. Dottor Piovella. Nicoletta, lei è perfetta. Direi che la cataratta dobbiamo rinformare le persone che è un qualcosa da non drammatizzare, ma che colpisce tutti se abbiamo una vita giusta, lunga e prosperosa, e che comunque deve avvalersi, per dare il miglior risultato, dell'applicazione delle nuove scoperte, delle nuove cure, delle nuove tecnologie che ci permettono risultati che fino a qualche anno fa non erano assolutamente attuabili. Però dobbiamo far riflettere. Oggi noi siamo purtroppo in una situazione di grande difficoltà di tutti i sistemi sanitari nel mondo, non c'è una responsabilità di qualcuno. Direi che questa situazione è una situazione molto complicata, ed è molto complicata soprattutto sulle risorse. Quindi è ovvio che noi dobbiamo sensibilizzare e informare le persone, perché le persone si facciano sentire, perché giustamente quando ci sono delle grandi limitazioni è ovvio che bisogna fare delle scelte, e la politica è in grossa difficoltà. È ovvio che noi dobbiamo far sentire la voce delle persone che testimoniano come per loro sia importante la vista, e per questo lo slogan è la vista ti salva la vita, perché lei deve, Nicoletta, comprendere che quando in età avanzata una persona che ha avuto una vita normale e positiva incomincia a perdere la vista, il mondo gli cade addosso, è veramente una situazione molto penalizzante. Quindi noi dobbiamo, anche se sono dei momenti difficili, trovare la forza di convincere tutti che abbiamo bisogno delle risorse in più, perché senza risorse in più, poche risorse in più, ovviamente non possiamo dare garantire tutto a tutti quello che si può dare. Che possiamo dare, che è potete lo stesso dare. Per la maculopatia, perché la maculopatia, purtroppo, lei l'ha descritta in un modo perfetto. Dobbiamo sempre ripartire dal fatto che la maculopatia dipende da fenomeni di degenerazione della circolazione. È ovvio che con l'età questo colpisce indistintamente tutti, tanto che la maculopatia colpisce una persona su tre dopo i 75 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che una persona su tre dopo i 75 anni non sarà in grado di eleggere un estratto conto bancario, e questo procura qualche difficoltà. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è che abbiamo delle terapie, non abbiamo ancora delle terapie definitive, ma abbiamo delle terapie che possono aiutare a mantenere una vista adeguata a centinaia di milioni di persone. Oggi, per i problemi di costi, organizzatività e di presa di coscienza, perché torno a ripetere, l'informazione, la giusta informazione delle persone è un elemento importantissimo, abbiamo 100.000 persone in Italia che sono per noi un numero enorme, che non riesce ad accedere correttamente alle giuste terapie, e quindi noi abbiamo la responsabilità come medici oculisti di metterci sulle spalle questo lavoro di facilitatori e soprattutto di informare, di motivare le persone, di tutelare, di curare la loro vista. Perché ricordiamo che la vista, come dice proprio la vostra campagna, ti salva la vita. Ricordiamo naturalmente, dottor Piovella, io devo passare la linea al GR, quindi i minuti scappano, che è bene sottoporsi a dei controlli regolari, non aspettiamo di andare dall'oculista quando abbiamo un problema che proprio impatta sulla nostra salute visiva. Facciamo dei controlli, soprattutto ci sono dei momenti della vita in cui un oculista può fare un quadro della nostra situazione, quindi consigliarci eventuali terapie e ulteriori controlli. Dottor Piovella, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie mille, auguro, Nicoletta, veramente gentile. Le auguro una bella campagna, una buona giornata e tanti sorrisi. E noi di sorriso parleremo subito dopo nella seconda parte di Cuore e Denari. Intanto vi aspetto, continuate a mandarci i vostri sorrisi all'800240024. E poi, se guadagnate uno specchio, faremo insieme al nostro esperto una sorta di autotest. Andiamo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Viva la RAI, fa crescere sani, viva la RAI. Ed eccoci tornati insieme. Il canone RAI, abbinato alla bolletta dell'energia elettrica, ha portato alla luce un aumento di 5,5 milioni degli abbonati, con un notevole recupero di gettito e una riduzione dello stesso canone. E il dato è stato recentemente fornito dalla direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e questo argomento ci dà l'occasione per tornare a fare un po' il punto sul pagamento del canone in bolletta e sulle diverse situazioni e dubbi dei consumatori in merito. Insomma, sappiamo che quello del canone è un tema che stuzzica sempre molto, perché anche, lo diciamo, se la nuova modalità di addebito in bolletta sembra molto semplice, poi nei fatti le complicazioni non mancano. Allora, 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666. In nostra compagnia oggi l'avvocato Emanuela Bertucci, legale ADUC. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Avvocato, chiedo anche a lei di farci un sorriso, perché abbiamo iniziato proprio questa puntata con una bella risata di Tiziano Terzani, ricordando ai nostri amici quanto un sorriso possa migliorare la vita. Ci sono fior fiori di ricerche che lo sostengono, ha anche dei benefici importanti sul nostro sistema immunitario, ma comunque costa poco, rende molto. Qua siamo a cuore denari, quindi invito anche a lei, dopo la nostra trasmissione, di mandarci magari il suo sorriso via WhatsApp. E parliamo, è d'accordo? Ce la facciamo? Certo. Bene. Allora, intanto affrontiamo questo tema che insomma a volte non è che proprio ci strappi un sorriso. Intanto, come funziona l'addebito del canone e a chi spetta e a quanto ammonta? Partiamo proprio dall'ABC. Allora, come ormai tutti dovrebbero sapere, ma purtroppo non tutti sanno, dal gennaio del 2016 il canone viene riscosso in bolletta, e la bolletta è l'energia elettrica, quindi funziona così. Intanto è dovuto da tutti coloro che sono possessori di una TV ed è dovuto un solo canone per nucleo familiare, per cui se in una stessa famiglia i soggetti che sono anagraficamente residenti insieme hanno 3 televisioni nella stessa casa, è dovuto un solo canone. Sì. Se hanno anche la televisione alla casa al mare, è sempre dovuto un solo canone, per cui si ragiona per nuclei familiari. Perfetto. Quest'anno l'importo del canone RAI è sceso da 100 a 90 euro e dovrebbe, e uso il condizionale purtroppo non a caso, essere addebitato nella bolletta elettrica delle utenze residenziali, per cui nella casa di residenza uno dei componenti del nostro nucleo e sarà intestatario della bolletta ed è su quella bolletta che viene addebitato il canone in 10 rate, in 9 rate da 10 euro, mi sono confusa. Lei ha usato il condizionale, infatti non tutto funziona sempre alla perfezione, avvocato, e ahimè io lo posso testimoniare davvero in prima persona, perché c'è chi ad oggi continua a non ricevere l'addebito del canone pur dovendo in teoria vederselo addebitato, nessuna voce in bolletta. Alla fine dell'anno scorso chi si trovava come me in questa situazione ha dovuto versare tutto, ricordo, in un'unica soluzione con un F24, e questo tra l'altro è stato un po' insomma uno svantaggio, perché non abbiamo potuto pagare in modo dilazionato, ma tutto insieme. A voi arrivano delle segnalazioni simili? Perché io al momento ho pagato l'F24 perché l'anno scorso non mi era arrivato, quest'anno di nuovo in bolletta nessuna voce. E di lì ho iniziato il balletto dall'operatore alle agenzie delle entrate, dall'agenzia delle entrate all'operatore. Adesso ho detto: Debora, ne parlerò in diretta con l'avvocato Bertucci, e nello stesso tempo invito chi si ritrova nella mia stessa situazione di raccontarmi che cosa ha pensato di fare, che cosa ha fatto. Avvocato, a lei la parola. Allora, è un problema che non è capitato soltanto a lei, a noi immagino arrivano molte segnalazioni, sia di persone che si aspetterebbero di trovare il canone in bolletta e non ce l'hanno, sia di persone che al contrario non se lo aspetterebbero e invece se lo trovano. Prima di tutto la cosa che bisogna guardare è se la bolletta elettrica è un'utenza domestica residenziale, perché sì, molte persone non ce l'hanno in bolletta perché la loro non è un'utenza elettrica residenziale, quindi per averlo in bolletta devono prima di tutto fare la segnalazione che al proprio, diciamo, gestore energetico che la propria utenza è residenziale e poi ricevere il canone in bolletta. Lei diceva: io in questo modo ho perso, diciamo, il beneficio della rateazione. No, ma non è facile, perché io ho chiamato l'operatore, ho specificato che era la mia residenza, ma l'operatore dice: no, deve chiamare l'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate risponde: eh no, non è un problema, deve chiamare l'operatore. Perché deve chiamare l'operatore? Perché noi segnaliamo all'operatore solo i casi in cui il canone non va debitato. Ha ragione l'agenzia delle entrate. Ok, allora io ho richiamato l'operatore, la signora gentilmente poi si è fatta a proposito una risata e mi ha detto: non mi era capitato nella mia lunga carriera di essere contattata da un utente per pagare la bolletta. Allora, ecco, allora ci deve mandare un fax. Io al momento non l'ho mandato, ma ho chiesto: ma se poi io non pago, poi vado in mora? No, mi dice l'operatore, perché se il canone, la cosa non le viene richiesto, lei allora non ci ho più capito nulla. Al momento io sono nella condizione in cui, lei mi conferma, si trovano tanti italiani, ma non so da che parte votarmi, mandare fax, pagare in un'unica soluzione quando poi arriverà una data in cui, che fare? Allora, cosa fare? Intanto il problema dell'ANICO, ecco, oggi facciamo così. Esatto. Il problema dell'ANICO si risolve così: se la sua bolletta è un'utenza domestica residenziale, sbaglia l'operatore che non gli addebita il canone in bolletta. Sì. Perché ha ragione l'Agenzia delle Entrate, è compito, diciamo, dell'operatore. Ma comunque, Nicoletta, a prescindere da chi sia, di chi sia l'errore, comunque si ritrova con un debito non pagato. Brava. E quindi cosa fa? Io non consiglio assolutamente di rimanere semplicemente inerti, attendendo migliori tempi e seguendo il motto "a pagare a morire c'è sempre tempo", perché in realtà prima o poi qualcuno viene a bussare alla porta e potrebbe accadere anche con un'ingiunzione di pagamento. Quindi, se mi rendo conto che non mi è stato addebitato il canone in bolletta, io entro la fine dell'anno devo pagarlo tutto quanto tramite F24. Certo, come è successo l'anno scorso. Esatto, come è successo l'anno scorso. E lì, di anno in anno, fino a che non verrà da loro regolarizzata questa situazione. Lei, più che segnalarglielo, gli utenti nella sua stessa posizione, più che segnalarlo, non possono fare. L'importante è che si mettano in regola con il pagamento per non dover subire contestazioni. Anche perché fare comunicazioni a visto lei stessa, si entra in un ginepraio burocratico dal quale poi alla fine non se ne esce più. Bisognerebbe mandare raccomandate sia al gestore elettrico che alla RAI, il che diventa un'operazione, oltre che macchinosa e fastidiosa, anche più costosa, perché poi all'importo del canone aggiungo i 5-6 euro di ogni singola raccomandata e quindi alla fine vado a pagare molto di più. Capisce che ha dell'assurdo, questo. Certamente. Ecco, perché io dico: prendetemeli. No, non me li prendono, adesso devo avere tutto l'affanno per pagare. Vabbè, comunque, abbiamo il messaggio ricevuto, meglio pagare. Ma avvocato, è possibile anche la situazione contraria, cioè che qualcuno ancora si veda addebitato il canone pur avendo presentato la dichiarazione di non possesso della TV? Sì, è possibile. Diciamo che quindi la manda meglio, li pago io. Ecco, sì, così. Le ulteriori tematiche su, diciamo, gli errori e le segnalazioni che giungono a noi dell'ADUC in materia di canone sono: ho inviato la dichiarazione di non detenzione, ma comunque continua ad arrivarmi il canone, cosa devo fare? E poi non ho inviato nessuna dichiarazione perché avevo chiesto la suggellazione qualche anno fa, oppure perché ho fatto la dichiarazione di non detenzione l'anno scorso, ma comunque mi arriva il canone in bolletta. Chiariamo. Tutte le suggellazioni, le richieste di suggellazioni, le disdette del canone RAI fatte negli anni passati non sono assolutamente più valide, per cui dimentichiamo quello che è stato per il passato. Ognuna delle persone che non ha una televisione deve ogni anno, non è sufficiente un'unica dichiarazione, ma ogni anno inviare all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione di non detenzione. Se non lo fa, ad esempio l'ho fatto per il 2016 ma non anche per il 2017, il canone nel 2017 è dovuto anche se non abbiamo una TV. O meglio, mi correggo, siccome la dichiarazione può essere fatta per l'anno successivo entro il 31 gennaio, quindi per il 2017 doveva essere fatta entro il 31 gennaio del 2017, se abbiamo perso questa scadenza abbiamo ancora tempo per farla entro il 30 giugno del 2017 e quindi evitare di pagare il canone per il secondo semestre. E se dimentichiamo e l'una e l'altra, ci verrà addebitato l'intero importo per tutto l'anno. E su questo credo ci sia stato anche un difetto di comunicazione, per quanto la comunicazione l'anno scorso sul canone sia stata, insomma, anche massiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia in radio che in televisione. Però ci sono degli aspetti che effettivamente sono macchinosi, come la necessità di ripresentare questa dichiarazione ogni anno. E certo. È un'informazione che è passata poco alle persone e che a ben vedere ben si poteva e si potrebbe anche per il futuro migliorare in un modo estremamente semplice. Ad esempio? mandando la comunicazione in bolletta. Mm. Siccome quel plico di carta ci arriva tutti quanti i mesi, poco ci vuole ad aggiungere un foglio e a dire: carissimo abbonato Rai, anche se abbonato Rai è una parola un po' particolare, sì, carissimo utente elettrico, ricorda che il canone Rai è pagato in bollette e che quindi se non hai la TV questi sono i termini per le dichiarazioni. Questo sarebbe un atteggiamento, diciamo, di estrema trasparenza, estrema chiarezza. Bene, che avvocato, renderebbe l'informazione semplice all'utente. Se non ci chiedono sbagliano, come si dice. Basterebbe chiedere e noi avremmo già la soluzione da suggerire. Purtroppo, vero? Però, siccome la norma esiste, chi non si informa sbaglia. Ecco. E infatti nella recentissima audizione che il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fatto in Commissione Anagrafe Tributaria in materia di canone RAI, uno dei dati che mi è balzato particolarmente agli occhi è quello del diverso numero di dichiarazioni di non detenzioni fra il 2016 e il 2017, cioè nel 2017 sono pervenute 500.000, 560.000, qualcosa del genere, dichiarazioni di non detenzione. Per l'anno successivo, 2017, sono diminuite di circa il 10-12%. Delle due l'una: o più persone hanno comprato delle TV, sì, oppure tante persone non sapevano che questa dichiarazione doveva essere rinnovata, non hanno ricevuto alcuna informativa e quindi comunque si trovano a pagare. Si parla di 100.000 persone. È mica poco, eh? Mica poco, per 90 euro, ci mettiamo a fare i conti, sono soldi che vanno in tasca dell'erario, però non dovuti. Certo. Non dovuti perché quella tassa non è dovuta, ma comunque perché l'utente, il cittadino, consumatore, contribuente, non ha prestato adeguata attenzione a questa cosa, comunque deve pagarla. Avvocato, ho una domanda di Alberto che mi piace, l'ho selezionato tra quelle che stanno arrivando. Il canone RAI mi viene addebitato sulla seconda casa e non su quella dove ho la residenza? Devo fare qualcosa? Sì, deve compilare la dichiarazione, il modello di autocertificazione, indicando che l'utenza principale è quella della casa di residenza. Anche al signor Alberto consiglio di verificare sulle bollette se effettivamente l'utenza della seconda casa è non residenziale, come ci si aspetterebbe, perché è possibile che sia il contrario, cioè che pur essendo, diciamo, realmente la seconda casa, in realtà figura come prima casa in bolletta e quindi può darsi che sia per questo motivo che ha debitato su quella bolletta lì. Allora, abbiamo Massimo che ci chiama da Genova. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Intanto che Massimo si prepara a fare la sua domanda, avvocato, non ho la televisione ma PC e tablet, devo pagare lo stesso il canone? Ci scrive no, un ascoltatore. No, stia questa sereno. Questa è una cosa che è stata chiarita da diversi anni da parte del Ministero. Questa la sapevo pure io. Massimo da Genova. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Il mio quesito è questo. Laddove il gestore di energia elettrica non addebiti come deve e ottemperando a quelli che sono le disposizioni di legge al debito del canone RAI in bolletta e io ricevessi una mora di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, posso rivalermi sul gestore per un mancato onere da parte sua? Ma una mancanza formale da parte sua? Massimo praticamente ha il problema dell'anico, dottore, sì, avvocato sì, Bertucci. Sì, lo vuole strutturare giuridicamente, però purtroppo a Massimo devo rispondere che no, perché dal punto di vista del contribuente è il contribuente che è tenuto al pagamento delle tasse, attivandosi, se non lo riceve in bolletta, appunto tramite il pagamento dell'F24, che è l'altra modalità prevista dall'Agenzia delle Entrate. Per cui il suo ragionamento, aspetto e quando mi verrà contestato qualcosa mi rivalgo contro il gestore elettrico, non funziona, Massimo. Perché sono accordi fra Agenzia delle Entrate e gestori finalizzati alla discussione, ma è il contribuente che è il centro di tutto e che è il soggetto tenuto al pagamento. Massimo, tocca pagare. Massimo? Sì, pronto? Sì, non funziona un po' come sostituto d'imposta? No, Massimo si sta arrampicando sui vetri. Massimo, dobbiamo, e parlo al plurale perché io sono nella sua stessa situazione, non ho ricevuto l'ingiunzione di pagamento, dobbiamo pagare e se non ce li prendono loro dobbiamo dire sono qui, eccoli qua, dobbiamo portarli con i denti anche scodinzolando. Va bene, grazie mille a tutti. Massimo, a tutta la mia solidarietà. Avvocato, è così, no? Infine, ai soldoni. Sì, sì, sì, ecco. Il soldone è così, ognuno è responsabile delle tasse che deve pagare, questa è soltanto una modalità di riscossione, di certo estremamente macchinosa perché ha reso la vita ai cittadini più difficile, cioè devo dire, sicuramente dai. Ha contrastato l'evasione e questo è un grandissimo pregio, oggettivamente da questo punto di vista è un buon risultato. Trascura però tutti quei contribuenti che non sono tenuti al pagamento, non li tiene in debita considerazione. Comunque c'è di peggio, no? Proprio per prenderla un po' con un sorriso. Andrea da Modena ci scrive: ma se la TV non la uso perché è rotta, ma rimane solo come piano di appoggio, devo pagare lo stesso, avvocato? Andrea. Andrea la usa un po' come mobiletto per mettere, sì, così. Deve pagarlo lo stesso, uguale. Perché per quanto sia rotta è comunque aggiustabile. Quindi Andrea. Quindi se vuole una mensola, butti la TV e compri una mensola. Va bene, avvocato, grazie per essere stato con noi. L'abbiamo presa anche un po' in ridere, ma lei ha dato delle indicazioni molto preziose, almeno anch'io ho capito, ma lo sospettavo. Grazie, avvocato, per essere stato con noi. Buona giornata, buon sorriso. Aspettiamo il suo sorriso su WhatsApp e naturalmente anche quello dei nostri ascoltatori, che invitiamo a guadagnare uno specchio. Allora sì, l'avevamo anticipato, di sorrisi e di denti parliamo oggi in questa ultima parte di Cuore Denari, di sorriso, perché in occasione della recente giornata mondiale della risata, che è stata proprio celebrata lo scorso 7 maggio, medici e ricercatori provenienti, pensate, da ogni parte del mondo hanno confermato i benefici della risata. Parliamo anche di denti, perché dopo il periodo nero della crisi economica, che ha portato le famiglie a tagliare anche sulle spese odontoiatriche, i bambini italiani tornano dal dentista. Negli ultimi 12 mesi 9 genitori su 10 dichiarano di essere stati o di aver accompagnato i propri figli dal dentista almeno una volta per un controllo oppure per uno specifico problema. Sono i dati dell'indagine Educarie dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, che sono stati effettuati su 1000 genitori di ragazzini sotto i 14 anni. Allora, di bocca, di sorriso, di salute, di igiene orale, ma anche della dieta del sorriso, parliamo con il professor Luca Levrini, odontoiatra, docente di ruolo all'Università degli Studi dell'Insubria e autore di un libro che si intitola proprio La dieta del sorriso, mangiare bene per la salute della bocca. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, con lei parleremo di igiene non solo, perché in occasione di tante puntate lei ce l'ha ribadito, la salute dei denti è importante sicuramente per l'armonia e la bellezza del sorriso, ma anche e soprattutto per il nostro benessere generale. Infatti, numerosi studi dimostrano che quelli del cavo orale possono essere la spia di altri problemi di salute, in modo particolare della salute del cuore. C'è una relazione molto stretta, professor Levrini, la ricordiamo? Sì, la relazione è diretta. Il motivo per cui c'è questa relazione diretta è abbastanza semplice. Nel momento in cui in bocca si manifesta anche una semplice infiammazione delle gengive, la cosiddetta gengivite, si aprono delle porte, delle spiragli attraverso il quale passano i batteri che si accumulano nella bocca, in particolare nella placca batterica. Ora, questi batteri che entrano proprio in questi spazi lasciati liberi dalla malattia delle gengive, che è l'infiammazione, la gengivite, vanno nel circolo ematico e determinano un'infiammazione lontano dalla bocca, esattamente come se fosse la gengivite, però lontano dalla bocca. Questa risposta infiammatoria è chiaramente un motivo per predisporre, coinvolgere e accelerare le malattie cardiovascolari, per esempio aumenta il rischio di infarto, di ictus e di mortalità. Sembrano cose lontane, ma c'è una relazione così stretta che possiamo affermare che per proteggere la salute del nostro cuore dobbiamo avere una bocca sana. Il professor Levrini ci darà tutte le indicazioni, ma prima andiamo a sentire i mercati, poi torniamo insieme. Se avete uno specchio, uno specchietto, insomma, se non siete in macchina, restate con noi perché faremo una sorta di autotest. Vi aspetto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Che è successo ai tuoi denti? Li ho sbiancati. Sono davvero molto molto molto bianchi. Che cosa stai fissando? Hai uno smalto bianchissimo. All'inizio non dovevo andare all'università, dovevo diventare igienista dentale come mia sorella Beverly. E io ho profondo rispetto per denti e gengive, in particolare per le gengive. Tutta la mia famiglia lavora nei denti. A denti stretti, avere il dente avvelenato, battere i denti, difendere quei denti, fuori dai denti, levarsi un dente, mettere qualcosa sotto i denti. È quasi l'ora, mostrare i denti. Questi sono solo alcuni dei detti che coinvolgono i denti, e di denti stiamo parlando con il professor Luca Levrini. Professore, ci ha spiegato e ricordato la stretta relazione che c'è tra la salute della bocca e la salute del cuore, e ho letto anche un'indagine, uno studio condotto da uno dei principali enti di beneficenza per la salute orale al mondo, secondo cui il numero di denti perduti durante il corso degli anni può essere correlato all'aspettativa di vita. Insomma, più denti perdiamo, meno anni campiamo. È così? È verissimo. Sì, sembra una cosa strana, ma in realtà ci sono stati degli studi per arrivare a questa, che sembra così un modo di dire. No, è verissimo. Se partiamo dalla considerazione che ogni patologia, che può essere la carie o le gengive infiammate in bocca, è una patologia di tipo comportamentale, significa che è dovuta sostanzialmente al nostro comportamento, per esempio, e in modo particolare, di come ci laviamo i denti, di cosa mangiamo, se fumiamo o non fumiamo. Ecco, è stato dimostrato che, essendo una patologia comportamentale e riguardando il nostro comportamento, potrebbe significare che chi è disattento alla bocca è anche disattento all'organismo in toto. Per sì, cui ha uno stile di vita non attento. Non attento. Esatto. Allora, 800 24 00 24, siete pronti per il nostro test, ma anche naturalmente per le vostre domande. Se avete dei dubbi sulla bocca del vostro bambino, ci sono i denti piccoli, i dentini da latte, come spazzolarli, fluoro sì, fluoro no, e qual è lo spazzolino migliore, quello elettrico, quello manuale? Il filo interdentale cerato, ma il colluttorio va usato ogni volta che ci laviamo i denti o solamente alla sera? 800 24 00 24. Ma professore, intanto ci siamo molto concentrati nella prima parte della trasmissione sul sorriso, e il sorriso dà anche delle così informazioni al nostro dentista. Intanto lei guadagno uno specchio, lei ci dà un po' il suo parere. Direi di metterci nella posizione base, seri oppure insomma bocca chiusa davanti allo specchio, e proviamo a notare la linea della nostra bocca e cerchiamo di vedere se è proprio dritta oppure curva leggermente in su o in giù. Professor Levrini, quali informazioni lei raccoglie dalla linea della nostra bocca, che è quella che è tra le due labbra? Paradossalmente potrebbe sembrare anomalo, ma in realtà la posizione di base normale non è a bocca chiusa e non è a labbra chiuse. Deve esserci rilassamento, i denti non devono essere a contatto. Già se uno rimane con i denti a contatto, significa che i muscoli del viso sono stressati, sono troppo coinvolti. Quindi, di fatto, le labbra devono essere rilassate e in qualche modo esporre parte dei denti. Un soggetto normale deve esporre anche 3-4 mm di denti, o dove intravedere tra il labbro superiore e il labbro inferiore parte di dente. Guardando i denti di Carmelo, ma lui c'ha pure i baffi, diventa un po' difficile. I baffi coprono. Taglia sti baffi, Carmelo. Allora, se no non si vedono i dentini. Professor Levrini, scusi. Se si vedono i denti, bisogna fare in modo che questi denti ovviamente abbiano inizialmente un colore. Ma torniamo alle labbra, che forse sono proprio l'argomento più interessante di inizio. Le labbra, che ovviamente sono coinvolte nel sorriso, sorriso che si manifesta in modo magico e comunicativo, però ricordiamolo, sempre assieme agli occhi. Per cui la prima cosa che dovremmo fare di fronte allo specchio è iniziare a sorridere, cercare di capire come il sorriso così forzato e non espressivo non coinvolga gli occhi. Nel momento in cui si riesce a fare invece un sorriso molto coinvolto, molto espressivo, soprattutto molto sincero, gli occhi vengono coinvolti. E quindi in qualche modo è interessante capire come il sorriso rappresenti un gesto comunicativo volontario, positivo e piacevole quando incontriamo qualcuno. Nel momento in cui incontriamo qualcuno gli stringiamo la mano, e questo è un atto volontario, io decido di stringergli la mano, però contemporaneamente in modo involontario sorrido, e sorrido sempre. È uno straordinario momento per dire quello che sta succedendo, cioè io ti accolgo, io ti voglio bene, io sono a tua disposizione. Quando non avviene questo? Non avviene quando io non ho interesse di incontrare questo qualcuno. Sì, e oppure allora... ci sono, professore, delle persone che vorrebbero sorridere ma non sorridono perché hanno dei denti che non sono, a loro parere, non sono belli, non sono presentabili, sono denti che magari o mancanti oppure non sono sufficientemente bianchi o non sono ben allineati, sono un po' accavallati, perché non tante persone vorrebbero così sfoderare un bel sorriso, un sorriso quasi cinematografico, bianco. Molte persone infatti mi stanno già chiedendo se il trattamento sbiancante lei lo consiglia e come, attraverso quali tecniche. E invece quando noi abbiamo in qualche modo timore così, dell'aspetto dei nostri denti e aggiungo anche delle nostre gengive, tendiamo a sorridere di meno. 800 24 00 24, andiamo sicuramente allo sbiancamento, ma guardiamo anche i denti dei nostri bambini. La ricerca ci dice che li stiamo accompagnando ancora dal dentista, e questo dopo un momento in cui la crisi aveva fatto fare delle rinunce. Andrea, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Treviso, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Di solito penso che siete belle, oggi devo dire bella, oltre che brava, insomma. Grazie Andrea, sì, ma anche Deborah è bella, glielo dico, anche a lei il suo complimento, e grazie molte. Allora, ho mia figlia che ha 11 anni e praticamente i due canini che non gli crescono. Che non sono scesi, sì. 11 anni. 11 anni. Inferiori o superiori? O abbastanza normale? Andrea, stia lì. Inferiori o superiore? Perché di canini ne abbiamo 4. Sì, inferiori. Inferiori. Sì. Allora, professor Leverini, ci sono i denti da latte, poi questi cadono, e poi non spuntano gli altri. E che cosa succede a 11 anni? Ma se si tratta di inferiori non deve preoccuparsi, in particolar modo a 11 anni. La permuta dei canini permanenti è difficoltosa a volte nell'arcata superiore per motivi di spazio. Questi motivi di mancanza di spazio in genere alla mandibola non ci sono, per un semplice motivo, è che i denti da latte nell'arcata inferiore sono più grandi dei denti permanenti che devono permutare nella zona posteriore, e questo crea sempre notevole spazio nell'arcata inferiore. All'opposto, nell'arcata superiore c'è il problema opposto, i denti hanno spesso difficoltà a permutare perché in parte l'osso non riesce a crescere correttamente, e quindi i denti permanenti che devono permutare, e gli ultimi sono i canini, non trovano più lo spazio per permutare. E quindi la mia risposta è stare assolutamente tranquillo, piuttosto sincerarsi che i denti ci siano. È vero che è raro la genesia, quindi la mancanza dei denti dei canini permanenti inferiori, però comunque non a 11 anni, ma sicuramente verso i 13-14 anni, laddove non fossero permutati, a quel punto io mi porrei il dubbio. Ci sono o non ci sono questi denti? E quindi si va dal dentista che... Esatto, che fa la radiografia per vederlo. Allora, Mario, professore, noi abbiamo detto, abbiamo un po' così sintetizzato il lavoro che mette in relazione il numero dei denti con gli anni di vita, con la longevità, ma Mario di Pescara, noi siamo molto contenti, ci scrive: mia mamma non ha più alcun dente ma ha 96 anni, fantastica. grazie Mario per questo messaggio. Abbiamo parlato di denti, di denti bianchi, e naturalmente professor Leverini, come poi immagino che glielo chiedano anche i suoi pazienti, molti messaggi ci chiedono se funzionano i dentifrici che sbiancano e quali sono attualmente le tecniche oggi a disposizione del dentista per sbiancare i denti. Ma naturalmente arriva anche il messaggio di un nostro ascoltatore, che è di Torino, Carlo, che usa la salvia, è gratis e priva di effetti collaterali, evidentemente per sbiancare i denti o per mantenere i denti bianchi. Professor Levrini, ci fermiamo un attimo perché andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito di insieme. Sbiancamento, gengive e poi gli strumenti dell'igiene orale. A tra poco. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, ci trasferiamo insieme al professor Luca Levrini dal dentista perché parliamo di sbiancamento dei denti. Si può fare a casa, si può fare dal dentista. Professor Levrini, chi può farlo? Cerchiamo di capire perché un dente bianco. Un dente bianco perché è rivestito da smalto. Lo smalto non è bianco. Lo smalto è trasparente come il vetro e più è spesso, più in qualche modo va a nascondere la parte più profonda che invece marrone si chiama dentina. Perché dico questo? Perché è importante capirlo? Se noi ipotizziamo che un soggetto durante la vita tenda ad avere i denti più gialli e quindi quando aveva 20 anni dei bei denti bianchi e quando invece ne ha 60-70 dei denti più gialli, è perché nel tempo lo smalto si è consumato, si è eroso, in qualche modo ha fatto trasparire la parte più profonda che invece è marrone. Perché dico questo? Perché è vero che, e poi ne parleremo, ci sono delle tecniche per sbiancare i denti, vedremo quale, ma la prima cosa è fare in modo che lo smalto sia nel tempo mantenuto dello spessore più adatto. E come facciamo? Dobbiamo in qualche modo gestire l'alimentazione in modo corretto. E qua arriva la dieta del sorriso. Perché? Tutte le volte che io mangio qualcosa, il pH della saliva diventa acido. Ora, lo smalto non è un tessuto minerale fortissimo, purtroppo in ambiente acido diventa molto debole. E in questo momento di crisi, lo smalto in modo impercettibile si assottiglia. E quindi il suggerimento comportamentale che bisogna dare per mantenere lo smalto spesso nel tempo è quello di mangiare a colazione, a pranzo, a cena e poi al limite durante i due spuntini, perché se questo non avviene costantemente il pH della saliva rimane acido, io costantemente vado a perdere la superficie di smalto in quella patologia emergente che si chiama usura dentaria che sta in qualche modo prevaricando la carie in diffusione. Ecco, quindi prevenire. Che cosa fare nel momento in cui uno vuole dei denti più bianchi? Ci sono delle tecniche di sbiancamento del dente che in sostanza sono un'applicazione di acido sullo smalto del dente. Acido che può essere a bassa concentrazione oppure ad alta concentrazione. Più è alta la concentrazione di questo acido e meno tempo deve rimanere sul dente. Ma questo lo sa il dentista, ci auguriamo. Questo lo sa il dentista. Io personalmente suggerisco sempre una concentrazione media di questo acido da applicare durante la notte per un periodo medio-lungo, anche tutte le notti per 10 giorni o 2 settimane. In questo modo lo smalto nel tempo riacquisisce quel colore che purtroppo aveva perso. Quindi una cura notturna, quella che suggerisce lei? Assolutamente sì, è quella più efficace. Senta, ma anche un buon amico dei denti e che rafforza lo smalto e tiene lontano le carie è il fluoro, no? Perché è un minerale che rafforza lo smalto, forse lo rende anche un po' più resistente anche a quelle che sono le aggressioni che poi sono responsabili della carie. Quindi il dentifricio che usiamo quotidianamente sempre col fluoro? Deve essere sempre col fluoro, c'è una direttiva ministeriale ben precisa, ormai consolidata da 2 anni, che suggerisce i dentifrici al fluoro, però ci sono dentifrici e dentifrici, nel senso che molti dentifrici hanno fluoro. L'indicazione è quella di andare a vedere sull'etichetta la concentrazione di fluoro. Cosa devo leggere? Parti per milione, deve essere 1000 parti per milioni. Ora, questo dentifricio con 1000 parti per milione lo posso usare dai bambini agli adulti agli anziani. I bambini però devono stare attenti a utilizzare una piccola dose, una pea size, una dose pisello, un piccolo tondino applicato come un pisellino. Allora, da quando? Da 6 mesi, o meglio, noi diciamo 6 mesi perché in genere è il momento nel quale permuta il primo dentino. In realtà è quando permuta il primo dentino, nel senso che se un bambino ha un dentino già a 3 mesi, deve già iniziare a utilizzare il fluoro. Dai, laviamo il dentino. E laviamo da subito il dentino, certamente, perché nutre in parte direttamente il dente, ma soprattutto in parte viene ingerito e sostituisce le pastiglie, le gocce, e va a nutrire i denti che si stanno formando. Alessandro ci chiama da Torino, professor Levrini. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io esulo un attimo dalla tematica del fluoro perché mia figlia ha 4 anni uh-huh. e sta cominciando a presentare un morso inverso abbastanza importante, cioè la mandibola si è sviluppata di più e ha portato i denti dell'arcata inferiore avanti rispetto a quella superiore. Ma sei succhiato il dito? No, non ha mai succhiato il dito, neanche Ciuccio, non l'ha mai voluto, ma neanche per scherzo praticamente, non siamo mai riusciti a farglielo prendere anche quando piangeva più disperata. Professor Levrini, un consiglio al volo, anche non vedendola senza vedere la bocca della bambina, per Alessandro. Sì, 4 anni. È chiaro nel senso che in bocca sia i bambini che gli adulti devono avere i denti sopra al di fuori di quelli sotto. Nel caso della piccola bambina, i denti sotto, nella parte anteriore, sono al davanti dei denti sopra. Ora, la prima cosa che c'è da chiederci è la parte sotto che è in avanti o la parte sopra che è indietro? In genere, spesso questo è dovuto anche alla parte sopra che è indietro. Magari avesse utilizzato il succhietto e il pollice, perché in qualche l'avrebbe modo portato un po' avanti. L'avrebbe portato un pochino più avanti. Ora, questo tipo di problematica può essere legata ai problemi respiratori e quindi sopra non cresce perché un bambino respira costantemente dalla bocca, respirando costantemente dalla bocca tiene la bocca aperta e la lingua in basso e la lingua non è appiccicata sopra e non fa crescere correttamente sopra. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Ma a 4 anni, quando si porta per fare un quadro della situazione e eventualmente per intervenire con l'apparecchio da un dentista, professor Levrini, allora, considerato che a 4 anni avrà ancora i dentini da latte? No, assolutamente avrà i dentini da latte. Bisogna capire se il pediatra si fa carico della visita, può essere benissimo il pediatra perché ha le competenze di capire se un bambino ha delle carie o delle problematiche. Se no, noi suggeriamo da subito, nel senso che la visita e l'inquadramento diagnostico deve essere fatto da subito, circa l'intervento terapeutico quando è compatibile con la collaborazione del paziente. Del bambino, perché sono piccini. Sì, ci sono degli apparecchi che vengono messi anche a 4 anni, serenamente sull'arcata superiore, anche di tipo fisso, se il bambino è collaborante. Se non è collaborante, si aspetta nel momento in cui si matura un pochino la relazione che può avere con un medico, come l'odontoiatra, per poi curarlo serenamente. Professore, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Mi raccomando, andiamo di spazzolino, dentifricio con il fluoro 3 volte al giorno e pochi spuntini, che sennò il nostro smalto ne risente. Professor Levrini, la invitiamo qua per riparlare, ricordo il titolo del suo libro, La dieta del sorriso, perché la salute dei denti parte anche da quello che mettiamo sul piatto. Grazie al professor Levrini, noi torniamo domani insieme a Deborah.